Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con Ruota Libera per tornare a parlare di mobilità ciclistica, ma con uno sguardo all'Europa. Il 2020, un refrain che abbiamo più volte ascoltato, è stato considerato, se vogliamo, l'anno della riscossa, della riscoperta della bici come mezzo di trasporto in ambito urbano, un mezzo sul quale scommettere per rivedere la mobilità nelle nostre città come alternativa al mezzo pubblico, che come sappiamo presenta le sue problematiche per quanto riguarda il distanziamento, e al mezzo privato che naturalmente rischia di congestionare le nostre città. Ne parliamo con Nicolò Panazzo, direttore della comunicazione della Federazione Ciclistica Europea. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio. L'organizzazione che raggruppa tutti i maggiori o minori anche, insomma, attivisti europei nell'ambito della ciclabilità e per promuovere la mobilità sostenibile nelle nostre città. Nicolò, l'abbiamo sentito insomma già dai mesi scorsi, dalla scorsa primavera, durante la prima data del coronavirus, tantissimi amministratori, decisori politici, sindaci, annunciare tante misure a favore di una mobilità più sostenibile, più piste ciclabili, incentivi, revisione dello spazio pubblico. Concretamente, diciamo, voi so che siete molto attivi, avete monitorato la situazione anche dal vostro sito con tantissimi dati, informazioni. Che bilancio possiamo fare per quanto riguarda le misure annunciate, le misure poi effettivamente realizzate? Moltissime città in tutto il mondo si sono adoperate in maniera abbastanza anche rapida, nel senso sono riusciti a mettere in piedi, a tirare fuori i piani per la ciclabilità che probabilmente tenevano in un cassetto da anni aspettando la buona occasione o il buon momento, il momento in cui c'erano i finanziamenti giusti, e sono riuscite quindi moltissime città a accelerare il processo di implementazione di queste infrastrutture. Quindi a livello europeo c'è stata una mobilitazione generale che probabilmente non ha precedenti nella storia dell'Europa. Noi abbiamo creato questo strumento sul nostro sito che, attraverso quale tracciamo tutti gli annunci, tutte le promesse di nuove misure che sono state fatte in Europa, tutte le misure che poi sono state effettivamente realizzate, e tracciamo anche il budget totale, quanti fondi sono stati destinati alla ciclabilità a livello europeo, e poi andiamo giù a ogni livello di governance, quindi poi a livello nazionale, regionale e municipale, cittadino. Possiamo dare un numero intanto a livello globale, quanti sono i chilometri? Finora sono stati annunciati circa poco più di 2.300 chilometri di misure infrastrutturali. Ci siamo focalizzati non solo su piste ciclabili, ma anche ampliamento dei marciapiedi per permettere alle persone di spostarsi a piedi senza stare troppo vicine. Adesso non ho un dato, ma credo che qualcosa come il 90% di queste infrastrutture siano avvenute in città. E invece i chilometri realizzati quali sono stati? Fino ad ora siamo riusciti a tracciare un totale di 1.115 chilometri di nuove infrastrutture realizzate sul campo. E quali sono le città che appunto le hanno realizzate di più rispetto agli annunci? Sì, le città che hanno realizzato più chilometri fino ad ora sono sicuramente Parigi. Parigi ha avuto, nel senso, sono riusciti a utilizzare questa crisi al meglio. Loro sono riusciti a realizzare, se non erro, circa 170-180 chilometri di nuove piste ciclabili da marzo, insomma dall'inizio della crisi. C'è Granada, che ha chiuso al traffico una grandissima parte, qualcosa come 60 chilometri di strade in città, quindi sud della Spagna, Andalusia. La città del Lussemburgo, che ha fatto la stessa cosa. Anche Bruxelles, qui dove abbiamo noi la sede, hanno implementato diversi chilometri di piste ciclabili, e poi a scendere ce ne sono tante altre. Smirne in Turchia ha fatto molto, Lione, Londra, Berlino. In Olanda adesso, da pochissimo, hanno preso questa decisione a livello nazionale, dicendo che in tutte le strade all'interno delle cosiddette built-up areas, quindi nelle zone costruite, di spazio costruito, la velocità di default, di base, sarà 30 km all'ora. Senti, in Italia come siamo messi? L'Italia si è pure mobilizzata abbastanza. A livello nazionale è uno dei tre stati che hanno messo a disposizione più fondi in assoluto, e quindi questo sicuramente è un punto di merito. Non abbiamo detto prima, ma a livello europeo sono stati messi a disposizione della BCE o di queste misure da tutte le autorità pubbliche circa poco più di 1 miliardo di euro. E la cosa interessante è che l'Italia in tutto ha messo un totale di poco più di 300 milioni di euro. Questi fondi si dividono tra il cosiddetto bonus BCE e fondi per l'infrastruttura. E la cosa interessante è che il 90 e qualcosa per cento di questo miliardo di euro che è stato destinato alla ciclabilità è stato messo da tre paesi: l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. E in Italia quali sono le città che hanno fatto meglio? Perché ci sono stati tanti annunci, per esempio Roma 150 chilometri di ciclabili, poi in realtà sono state realizzati pochi chilometri. Ecco, riusciamo a fare una classifica di chi è andato meglio, chi è andato peggio? In Italia, come dici bene, ci sono stati parecchi casi virtuosi per quanto riguarda l'annunciare, il promettere e il pianificare nuove misure, e poi appunto in realtà la risposta effettiva e concreta si fa ancora un po' attendere. Roma ha annunciato 150 chilometri di piste ciclabili e finora una manciata solamente ne sono state costruite. Qualcosa di simile è successo con Bologna, aveva annunciato qualcosa come 90 chilometri di piste ciclabili. Torino aveva annunciato delle misure per ridurre la velocità soprattutto delle auto. Ovviamente queste sono misure che... E poi ovviamente Milano, che ha, direi, abbastanza modestamente annunciato 35 km di piste ciclabili, e ne sono state realizzate abbastanza. La speranza è che tutte queste città riescano innanzitutto a creare queste infrastrutture, a mettere in atto queste misure, e poi soprattutto che riescano a trasformarle da misure temporanee in una fase di risposta emergenziale al Covid, alla pandemia e al lockdown, e a trasformarle, a farle diventare qualcosa di permanente che rimane anche che rimarrà una volta finita la crisi. Senti, invece, per quanto riguarda i fondi europei, gli investimenti europei sui quali si può contare, i fondi del Recovery Plan potranno essere destinati anche alla mobilità sostenibile ciclistica, se ne sta discutendo? Sì, esatto, questo è una cosa molto importante, perché come sappiamo i fondi che sono stati messi a disposizione dalla Commissione Europea come Recovery Fund per aiutare la ripresa sono molti, e l'Italia si è aggiudicata, diciamo, la fetta più grossa di questi fondi. Noi stiamo proprio cercando in queste settimane, in questi mesi, di spingere e di fare pressione politica qui alle istituzioni europee perché una parte di questi siano destinati esplicitamente allo sviluppo di misure per la mobilità ciclabile. In questo preciso momento al Parlamento europeo c'è un po' una lotta tra gli Stati membri e i membri delle istituzioni europee, perché gli Stati membri vorrebbero avere libertà di usare questi fondi come gli pare, e invece dall'Unione europea dicono vogliamo essere noi a dirvi dovreste fare così e cosà. Quindi c'è un po' questa negoziazione e stanno cercando di trovare un accordo, e noi speriamo, appunto, stiamo spingendo affinché ci siano una parte di questi fondi che siano destinati a questo tipo di misure. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Insomma, chi più chi meno in Europa a livello di grandi città ha deciso di scommettere sulla bici, ma ora che si avvicina l'inverno qualcuno potrebbe essere scoraggiato nell'uso di questo mezzo. Cosa fare quindi in caso di pioggia, vento e freddo? Un vecchio detto dice che non esiste cattivo tempo, esiste cattivo equipaggiamento, e allora i consigli del campione di ultracycling Omar Di Felice, amante delle basse temperature anche nelle condizioni più estreme, autore del libro Pedalando nel silenzio del ghiaccio. Buon pomeriggio Omar e ben ritrovato, ciao! Ciao Alessandra, ciao. Quali sono state le temperature più fredde alle quali hai pedalato? Ma diciamo che fino ad adesso sono arrivato a pedalare in ambiente artico fino ai meno 30, meno 35 gradi, ecco, questo diciamo che è un po' stata la temperatura limite, che è anche quella in cui si riesce, diciamo, a esprimere performance senza avere un decadimento troppo grande delle prestazioni. Senti, ma cos'è che ti attira del freddo? Ma sicuramente diciamo che il freddo rappresenta meglio quello che è il mio concetto di estremo, no? L'estremo si può intendere in mille modi, ma per me sicuramente l'esplorazione invernale, l'esplorazione in ambiente artico è un po' il mio ambiente, è la mia, diciamo, è il mio parco giochi personale. Quello che mi piace molto del freddo e degli ambienti artici che ho avuto la fortuna di poter esplorare è il silenzio e il contatto con la natura. Queste, diciamo, che sono le due componenti che fanno sì che io ogni anno poi vado a cercare i posti più estremi dove potermi veramente immergere e poter dare il meglio di me. Senza arrivare diciamo a queste condizioni più estreme, naturalmente, quali consigli possiamo dare a chi pedala anche in città, chi vuole continuare a usare la bicicletta nel freddo, anche con la pioggia? Ecco, quali consigli utili, partendo per esempio dall'abbigliamento? Diciamo che la regola di base è quella di non aver paura del freddo. Ecco, non dobbiamo essere spaventati quando mettiamo il naso fuori casa e sentiamo, no, quell'aria frizzantina. Quindi non coprirsi troppo, a volte l'errore è quello di coprirsi esageratamente, invece è vero che bisogna partire avendo anche un pochino di freddo? Guarda, la regola che io mi do sempre è quella di patire il freddo la prima mezz'ora. Perché questo? Perché poi con l'attività fisica, e quindi muovendoci e andando ad azionare tutta una serie di meccanismi cardiovascolari, il corpo arriverà in temperatura, e questo si può fare vestendosi adeguatamente e vestendosi a strati, senza vestirsi troppo e andando magari a togliere o mettere dei capi a seconda delle condizioni che cambiano. Io solitamente utilizzo dei capi in lana merino. Perché questo? Perché la lana merino crea un primo strato di isolamento dall'esterno. Andando a mettere un sottoguante, una calza in lana ad esempio, facciamo sì che le nostre estremità siano ben al caldo, e quindi questa sicuramente è la prima, diciamo, regola quando ci vogliamo approcciare al freddo. Qualche consiglio invece velocemente per il mezzo? Dobbiamo usare qualche accorgimento sui freni, sui copertoni? E anche renderci più visibili? Allora, considerando ovviamente il discorso delle strade, quindi spesso possiamo trovare l'umidità notturna, se non addirittura, no, la brina o il ghiaccio, e quindi è fondamentale andare ad avere le gomme sempre in ordine, come dico io. Quindi diciamo che facciamo sempre un check della bici e cerchiamo di montare dei pneumatici sempre diciamo non troppo usurati, andando a verificare sempre che abbiano un buon grip con l'asfalto. E il secondo accorgimento, come dici giustamente, è quello di rendersi visibili. Le giornate sono più corte, c'è meno luce, e sicuramente essere visibili, quindi con dei dispositivi luminosi sulla bici e poi andando ad utilizzare un abbigliamento magari un po' più riconoscibile, è una buona regola per la nostra sicurezza. E allora mettete in pratica i consigli di Omar Di Felice per l'uso della bici anche con il freddo, anche alle basse temperature. Riascoltateci se volete su podcast dalle principali piattaforme e anche dal sito di Radio 24. Scriveteci a rotalibra@radio24.it. Buon pomeriggio e buona bici a tutti.